Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Guido Bertolaso Romano, 65 anni, medico, sposato con due figlie dal 2001 al 2009, guida la protezione civile e dal terremoto di San Giuliano di Puglia le vede quasi tutte. Lo tsunami nel sud-est asiatico, le frane, gli incendi, le alluvioni. Dal 2008 è sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'emergenza rifiuti in Campania nel quarto governo Berlusconi. Commissario straordinario per il terremoto dell'Aquila, regista dei grandi eventi del Giubileo dai funerali del Papa Giovanni Paolo II fino al G8. Nel 2009 è il terzo personaggio più popolare dopo Obama e Napolitano, ma è un traguardo effimero. Poi tanti guai giudiziari, non tutti risolti, ne parleremo, insomma, dalle stelle alle stalle. Adesso, dopo 5 anni lontano dalla scena in cui si è occupato di volontariato in Africa, torna come candidato del centrodestra, ma nel 2008 a Roma, tra Alemanno e Rutelli, lo ha detto lui stessi, aveva votato per Rutelli. Allora, dottor Bertolaso, un uomo di sinistra alla guida della destra? Non ho mai detto che sono un uomo di sinistra, ho sempre detto che sono un uomo del paese, un servitore civile del nostro paese, ecco, ma che cosa... un uomo libero che di volta in volta vede chi sono i candidati e sceglie sulla base di quelle che ma sono che le loro cosa competenze. L'ha convinto a essere leader del centrodestra, a candidarsi per il centrodestra? Ma l'appello che mi hanno fatto i tre leader del centrodestra. Ecco, ma se andrà bene, i suoi voti saranno anche quelli della destra estrema. Ecco, vanno bene anche quelli? Ma vanno tutti bene, qui non si tratta di fare delle scelte politiche specifiche, qui si tratta di lavorare per risollevare una città che si chiama Roma e quindi, ecco, al di là di quelle che possono essere le idee politiche di ognuno, io credo che tutti i romani abbiano un unico desiderio, che è quello di risollevarsi dalla situazione vergognosa nella quale ci troviamo. Senta Bertolaso, il suo nome comunque, lo ha detto anche lei, è frutto di un accordo di vertice tra Berlusconi, Meloni e Salvini. Non era meglio fare le primarie anche con Marchini per avere un'investitura popolare? Guardi Minoli, le primarie le fanno quelli che hanno intenzione di essere, sì, di candidarsi a sindaco. In modo personale vogliono fare questa esperienza e quindi giustamente dicono: io voglio fare le primarie. Io sono stato richiesto di fare il sindaco, io me ne stavo in Africa, mi sono venuti a prendere, mi hanno portato qui, mi hanno detto: vabbè, guarda, però le primarie sono uno strumento democratico. Ma assolutamente, cioè, l'ho detto e lo ripeto, ma le primarie fanno quelli comunque che fanno parte di partiti. Io non faccio parte di partiti, mi è stato chiesto da una coalizione. A Milano c'è Sala, che non fa parte di partiti, ma per legittimarsi ha accettato le primarie. Lei perché no? Ma io non ho né accettate ma né non rifiutate. Le ha volute lei o non le ha volute Berlusconi le ma primarie? A me di primarie non mi ha mai parlato nessuno. Io sono stato chiamato quando evidentemente avevano già deciso che nel caso specifico le primarie non erano possibili per una serie di ragioni che certamente non mi riguardano. Ma non è che aveva paura di perdere con Marchini? Ma io non sono stato mai abituato a perdere, al di là di certe situazioni particolari non ho mai perso nella mia vita, il confronto non mi ha mai fatto paura con nessuno. Sembra una scelta, come dice Buttafuoco, fatta per perdere, invece non, lei dice di no. Ma anche facendo esempi calcistici, Leicester in Inghilterra doveva cercare di sopravvivere e non essere retrocesso, sta vincendo il campionato inglese, quindi evidentemente certe volte alcune previsioni non sono proprio corrette. Ma andare insieme non era più facile? Se facevate le primarie le Marchini, poi era più facile in qualche modo vincere successivamente. Ma potevano benissimo tutti e tre scegliere Marchini direttamente, oppure fare le primarie e chiedere a Marchini, a Storace e a chi altro volesse di partecipare. Ripeto, io non sono andato a bussare alla porta, non mi sono presentato questo con il piattino in mano. Senta, comunque Marchini ha detto: non userò i guai giudiziari di Bertolaso in campagna elettorale. Mi sembra un grande fair play, no? Perché è una persona per bene, è una persona corretta. Sicuramente, però... sicuramente altri non useranno lo stesso fair play di Marchini. Lei invece ha detto: penso che Marchini non sappia distinguere tra un DPR e una delibera comunale. Ma chi gliel'ha detto? Ma innanzitutto bisognerebbe spiegare a tutti che cos'è un DPR. Vabbè, ma comunque è una cosa burocratica. Era semplicemente una battuta per sottolineare il fatto che Marchini fino ad oggi non ha mai avuto esperienze di gestione e di governo di una situazione complessa. Lei però ha anche detto: io non ho mai costruito palazzine a scopo di lucro. Ma cosa vuol dire? Ma niente, vuol dire che sono... Non è mica un reato. Ma ci mancherebbe. Sono esperienze professionali diverse. Io di palazzine ne ho fatte parecchie, ma ne ho fatte per quelli che non avevano casa, per gente terremotata e quant'altro. Diversi. Appunto, infatti, quello che sto dicendo però io. Però non è un reato fare palazzine a scopo di lucro. Ma chi l'ha mai detto? Senta, ma a proposito di reati, a che punto sono i suoi di processi? sono tutti e due in una fase, come si dice, dibattimentale. Uno, sono 6 anni che stiamo aspettando di vederne la conclusione, l'altro è appena iniziato. Non ho da questo punto di vista nessunissima preoccupazione. Entrambi il dibattimento, soprattutto quello relativo al G8, tutta la parte relativa alle competenze dell'accusa si è conclusa e non abbiamo sentito non solo una voce, una testimonianza, una prova contraria a quella che era la mia difesa, la mia giustificazione. Abbiamo invece ascoltato solamente tutta una serie di conferme del mio ruolo assolutamente trasparente, al di sopra delle parti e spesso rigoroso. Ci torneremo sulla Maddalena. Ecco, lei cosa teme di più da questi processi? Ma io non temo nulla. Ho già passato tutti quelli che potevano essere i fanghi mediatici e quelle che sono state le vessazioni e le amarezze per la mia famiglia, assolutamente ingiustificate. Ma è vero che a sua difesa ha citato anche come testa il cardinale Sepe? Certo, ho citato il cardinale Sepe, come ho citato tutti quegli altri che hanno già testimoniato sul fatto che io non c'entravo niente, nessuna delle situazioni. Il cardinale Sepe, quando era il presidente di Propaganda Fide, siccome abbiamo fatto il giubileo insieme, come è noto, mi aveva messo a disposizione un appartamento perché 2-3 mesi durante i quali io mi ero ritrovato in situazioni di difficoltà in famiglia. Sepe lo ha detto in conferenza stampa, lo ha confermato, e quindi non vedo cosa ci sia di male. Senta, su questo. Ma in realtà con il lavoro che faceva la Protezione Civile, il rischio di essere sempre borderline con la legge era grande, vero? Certo, ma ecco. Io ho sempre detto che quando... Senta cosa mi ha detto nel 2009 in un faccia a faccia. Lei in passato lo ha ammesso, di essersi mosso sul filo della legalità. Certo, mi sono pure beccato un bel avviso di garanzia quando mi sono dovuto occupare dell'emergenza rifiuti in Campania. Alla fine una delle mie più strette collaboratrici è stata pure sottoposta agli arresti domiciliari. A me mi è arrivato un avviso di garanzia, come anche a prefetti e ad altri personaggi dello Stato. Quindi il rischio c'è? Certo, ma io dissi in quell'occasione, siccome fra l'altro sono medico, se io trovo una persona che è stata investita per strada e la trovo lì sanguinante lungo la strada, io la carico sulla macchina e la porto in ospedale. Se passo col rosso o se oltrepasso i limiti di velocità non mi interessa. E quello era il riferimento all'abuso di potere. Assolutamente. Alla gente invece, come diceva lei, questo Bertolaso che decide, che comanda, in effetti piace, perché secondo un sondaggio che ha fatto il TG di Sky, lei è il terzo personaggio del 2009 dopo Obama e dopo il presidente Napolitano. Insomma, che effetto le fa? Mi preoccupa moltissimo. Sì, certo. L'invidia che circola è tremenda. Una responsabilità enorme, un'invidia e quindi il rischio che qualcuno ti metta in tasca la solita bustina di cocaina. Ecco, altro che bustina, poi è capitato di tutto, se l'aspettava in qualche modo. Beh, l'ho detto a lei un mese prima di ricevere l'avviso di garanzia. Segnalo che se i magistrati o chi mi ha accusato avessero avuto una minima prova provata di quelle che le accuse che mi stavano facendo, mi avrebbero gettato in galera e avrebbero buttato la chiave, mentre invece non mi hanno neanche chiesto di lasciare l'incarico che stavo avendo. Era semplicemente un'operazione per gettarmi fango addosso e delegittimarmi agli occhi degli italiani. Senta, ma mi faccia capire, si è sentito vittima di una congiura? Beh, certamente non è stata un'operazione trasparente. Senta, ma rivisto adesso, però, tutto questo potere che aveva, la faceva sentire un po' onnipotente? Ma neanche per idea. Il mio potere era quello di stare in mezzo alle persone in difficoltà, ai più umili, a quelli che avevano perso qualsiasi speranza, a quelli che si ritrovavano in mezzo alle macerie, in mezzo all'acqua, in mezzo alla lava. Senta, Bertolaso, ma il modello Protezione Civile, a cosa le ha insegnato in positivo che può servirle a Roma? Che l'Italia è un paese straordinario quando fa squadra. Purtroppo non siamo abituati a fare squadra, ma quando ci mettiamo tutti insieme e lavoriamo con un unico obiettivo siamo imbattibili a livello mondiale. È in negativo cosa le ha insegnato invece? Che appunto si rischia di avere troppa visibilità e quindi di essere uccisi da quelli che crepano di invidia per il lavoro che uno sta facendo. Senta Bertolaso, lei con la Protezione Civile ha gestito in prima persona il terremoto dell'Aquila. Oggi l'Aquila è ancora un cimitero. Ne sente la responsabilità? Nel modo più assoluto, anzi vorrei dire esattamente il contrario. Premesso. Perché? Premesso che l'Aquila oggi non è un cimitero, perché i lavori comunque li stanno facendo, ma ormai stiamo parlando di una vicenda che è accaduta 7 anni or sono. Esatto. mi sono stato attaccato per le famose case che ho realizzato antisismiche per oltre 25.000 abitanti aquilani. Io l'ho fatto perché sapevo che la ricostruzione sarebbe stata lunghissima. Oggi all'Aquila, se fanno 0 gradi, siamo soddisfatti. Durante l'estate ci sono 45 gradi all'ombra. Qualcuno avrebbe voluto mettere questa gente dentro i container. Invece io, in 3 mesi, con l'appoggio di Berlusconi ovviamente, li ho presi e li ho messi in delle case assolutamente decenti. Ma scusi, lei è tornato mai all'Aquila? Certo, ogni tanto ci torno in incognito. E come la trovano? L'ho trovata... Come viene accolto? Ma io vengo accolto sempre bene. Ma pensa di aver lasciato un buon ricordo lì? Non lo so, questo dovete chiederlo agli aquilani. Non ha la sensazione andandoci? No, ricevo continuamente un sacco di messaggi da gente per bene. Ma allora chi è che non ha fatto il suo dovere all'Aquila? Ma visto che le cose sono un pochino a rilento, per essere gentili. Certamente quelli ai quali abbiamo passato il testimone nel gennaio del 2010, le autorità locali, a partire dal sindaco, che ovviamente non perde occasione per attaccarmi. Potrei far vedere tutti gli sms che ancora conservo, di quelli che invece erano i messaggi che lui mi mandava in privato. Dal sindaco fino a tutte le altre istituzioni hanno molto latitato. Ovviamente hanno fatto lo scaricabalire accusando i vari governi che si sono succeduti che non c'erano i soldi, mentre invece se avessero voluto avrebbero potuto fare molto prima di quello che stanno facendo. Senta, quando ha lasciato la protezione civile, inseguito dagli avvisi di garanzia dai giornalisti, lei è andato in Africa... Sulle tracce del dottor Schweitzer, quello che ha fondato l'ospedale di Lambaréné, perché cosa rappresenta Schweitzer per lei? È stato un esempio di vita, fra l'altro premio Nobel per la pace negli anni 50. Era un personaggio straordinario che all'improvviso, appunto, facoltoso, non aveva nulla che gli mancasse in Europa, prese e andò a lavorare per i più disgraziati del mondo. Senta, ma quando lei era in Africa c'era Ebola, lei se ne è occupato, che sembrava un flagello per l'umanità. Adesso non se ne parla più. Perché? Perché adesso non fa più paura. In Occidente, mentre ovviamente da quelle parti continua a uccidere la gente, quindi nel momento in cui il rischio per noi è calato non ci riguarda più. Quindi, ma sono problemi reali oppure sono delle ventate mediatiche? No, sono dei problemi reali. Le ventate mediatiche sono episodi che solamente nei momenti in cui è utile fa comodo parlarne, poi ovviamente è meglio dimenticare e lasciare quei disgraziati soli. E questo poi li costringe ad attraversare il Mediterraneo e venire da noi, ma questo è un altro problema. Ma adesso per Zika la stessa cosa? Beh, è ovvio che su Zika ancora si sa molto poco. È sicuramente un problema reale ed è un problema ovviamente che viene causato dal dilagare per cause di inquinamento ambientale, in questo caso delle zanzare. Ecco. È ovvio che è un problema soprattutto per le donne che giustamente vogliono diventare mamme. Se vengono colpite da Zika rischiano di avere dei problemi sul nascituro. Ecco, Bertolaso, in Africa c'era Ebola e Zika. A Roma ci sono i topi, non so quanti per ogni abitante. Se ci salviamo dalle buche, finiamo mangiati dai topi? No, questo è un rischio reale. Quando nel 2008 dovevamo fronteggiare quella terribile alluvione del Tevere con i barconi infilati dentro Ponte Sant'Angelo, io chiesi immediatamente di avere le mappe delle fognature, perché il rischio era che il Tevere attraverso le fognature esondasse in tutta la città. Non me lo seppero dare. Allora dissi a chi mi rivolgo, ai topi, per sapere esattamente come funzionano le fognature. Adesso si deve risolvere. Ai topi, perché in questi giorni in centro a Roma in molte zone non c'è internet perché i topi hanno mangiato i cavi del telefono e non capita niente, 10-12 giorni di isolamento. È pronto a dichiarare guerra ai topi? Ma certo, bisogna dichiarare guerra al degrado di questa città, perché ovviamente i topi, come il guano lungo i Lungoteveri e tutte le altre situazioni drammatiche, sono l'effetto di una situazione di degrado, di abbandono, di incuria, di disamore. Ma come si fa la guerra ai topi? La si fa ovviamente intervenendo da un lato sui topi con interventi ovviamente di deratizzazione, e mi pare che non ci siano problemi da questo punto di vista, perché è una storia lunga e si sa come intervenire. Si può. Ma il problema è a monte, riorganizzando tutto il sistema del Comune di Roma in modo che ci siano dei tecnici, dei personaggi davvero motivati e coinvolti nell'amore della propria città per risolvere questi problemi a monte. Anche all'immondizia si risolve così? Nell'immondizia credo di avere un po' di esperienza. Vabbè, ma a Napoli insomma, come ha fatto a Napoli? A Napoli non sono tutti convinti che lei ha risolto il problema a Napoli. Chi è stato che l'ha risolto per quello che si poteva risolvere? Noi a Napoli avevamo realizzato 3 discariche che sono state per un periodo il salvagente di una situazione drammatica. Ma se è diventata capitale dell'immondizia, la colpa di chi era? Sicuramente di quelli che prima non avevano lavorato nel modo corretto. Poi anche lì una carenza a livello organizzativo delle strutture locali aveva provocato quel disastro. Siamo finiti ma in che medaglia pagina. Si mette lei per l'immondizia a Napoli? Io non mi metto nessuna medaglia, no. Sono convinto di aver dato un contributo importante a risolvere, per quello che si è potuto fare, un problema drammatico per un'altra città stupenda del nostro paese. Senta, torniamo a Roma, la metropolitana vedrà mai la luce? Ma se continuiamo con questo tiramolla, ma sì o no secondo lei? Vedrà la luce se ci sarà un sindaco capace di impegnarsi e risolvere quelli che sono i problemi che ci sono. Ecco, ma lei quale crede, Bertolaso, che sia oggi il suo principale handicap agli occhi dei romani? Ma forse è quello ovviamente giudiziario, di questo ovviamente cercherò di chiarire ai romani. Fra l'altro lanciamo da qui una bella proposta. Siccome mi continuano tutti a fare queste accuse dei processi giudiziari, siccome i processi giudiziari non finiscono, anzi dovrebbero andare in prescrizione, e io ho già detto che la prescrizione la rifiuto e quindi voglio una sentenza, prendiamo per esempio un suo collega illustre, autorevole, certamente non mio amico, Michele Santoro, che in questo momento gli manca il microfono, credo. Io vorrei chiedere a Michele Santoro di trovare una rete televisiva, di chiamarsi una serie di giornalisti, non certo miei amici, Travaglio e alcuni giornalisti di Repubblica e dell'Espresso, e mi facciano il processo mediatico, visto che il processo giudiziario non si può fare. Mettiamo un plotone di esecuzione di una decina di giornalisti veramente accaniti contro di me. Io mi difendo da solo, un'ora in diretta, loro mi accusano, io spiego quali sono le ragioni della mia assoluta certezza. Allora abbiamo lanciato la proposta. E vediamo, poi saranno i romani a giudicare se sono colpevoli o innocenti. Mi sembra una buona idea. Senta, lei crede che Mafia Capitale abbia svelato tutte le connivenze tra la criminalità e la politica che ci sono a Roma? Non ancora, certamente è stato scoperchiato un vaso importante, ma c'è ancora molto da fare. Ma secondo lei può uno essere sindaco a Roma come Marino e non accorgersene? Ma certamente, se ci va un personaggio ancorché onesto, che però non conosce le varie macchine burocratiche del nostro paese, fa la fine di Marino. E questo il ragionamento che faccio io nei confronti dei miei concorrenti, perché nessuno di loro ha mai avuto esperienza di governo di una città, di una provincia, di una regione, di quei problemi drammatici che riguardano l'Italia in questo settore. Senta, la prima cosa che ha fatto Marino è stato chiudere Foro Imperiale, è fatto bene o male? Ma certamente c'erano tante altre urgenze prima di questa. Ma lei lo farebbe o no? Chiudere i Fori Imperiali? Ma io credo che ci sia qualche cosa di più importante da fare. Senta, prima. Marino comunque è un medico proprio come lei, le fa paura come precedente? Anzi, credo che abbiamo perso una buona occasione. Si sa che i medici sono dei grandissimi manager. Io per esempio ho altre 4 lauree oltre a quella di medico. Quindi da questo punto di vista il medico è sempre stato una figura che, conoscendo i problemi drammatici delle persone, sa, a mio avviso, come approcciare anche da un punto di vista umano alcune delle problematiche più serie. Senta, il suo avversario del PD dovrebbe essere Roberto Giacchetti, che lavora che ha lavorato con lei a Giubileo. Un'altra prova del fatto che destra e sinistra a Roma non hanno più senso? Hanno senso ovviamente per chi è ancora legato a certi ideali e a certi valori che dobbiamo rispettare. È ovvio che per quello che riguarda il governo, la gestione di una città così complessa, i problemi vanno ben oltre la destra, la sinistra, il centro. Sono problemi pratici. Sono È la nuova politica, insomma. Ma credo che questa risolvere i problemi, insomma. Sulla base di quelli che sono anche le problematiche, sicuramente bisogna trovare qualcuno che sappia come si affronta e come si risolvono. Non solamente faccia dei proclami in campagna elettorale. L'importante è vedere se dopo queste persone sono attrezzate per poter intervenire. E questo vale per tutti, naturalmente, anche per lei. Quindi, se gliel'avesse chiesto Renzi, si sarebbe candidato con Renzi, allora, con questa logica. No, a parte il fatto che Renzi non l'avrebbe mai chiesto. Ma se glielo avesse chiesto? No, assolutamente no. Mi è stato chiesto anche da altri partiti in passato di fare il sindaco. Perché Renzi no? Perché Renzi ama circondarsi da yes men. Non è che non mi è simpatico, io lo conosco bene. Lui ha bisogno di non avere ombre intorno. E io non sono uno yes man, non sono uno che si inginocchia davanti ai potenti. Senti, e la sua campagna elettorale come la caratterizzerà? Dal fatto potremmo usare fatta come? A parte il processo mediatico, che mi sembra una buona idea. Ci sarà uno slogan molto semplice, un vecchio slogan che noi conosciamo bene: fatti e non parole. Senta, è finanziata come? Ma quasi a costo zero, non c'è nessun bisogno di andare a fare proclami roboanti. Qualcuno lo farà senz'altro, ma io credo che spiegando ai romani, andando in giro sul territorio, nei quartieri, che budget si dà? Non me lo sono ancora dato perché sono solamente due giorni che sono candidato. Senta, ma di imprese impossibili realizzate come capo della protezione civile, quale considera il suo fiore all'occhiello? Il termovalorizzatore di Acerra. È stata un'operazione straordinaria fatta in un anno quando ce ne vogliono abitualmente 10. Oggi il termovalorizzatore di Acerra brucia 600.000 tonnellate all'anno. Due discariche vanno a finire invece in questo termovalorizzatore che ha risolto i problemi di Napoli e della provincia, che sta facendo anche guadagnare un sacco di soldi agli enti locali e produce energia elettrica per tutte le città circostanti. È il disastro? Disastro sicuramente non risolto, diciamo. Non risolto, ovviamente quelli che sono stati i miei problemi personali. No, no, ma dicevo, come capo della protezione civile, eventi, ha detto Acerra, positivo, negativo? Non, francamente, di fallimenti, al momento non vorrei essere presuntuoso, ma non me li ricordo. Ah. Senta, ma per esempio, lo spostamento del G8 dalla Maddalena all'Aquila, in che categoria la mette? Fallimenti o successi? Ma guardi, chiariamo subito, il trasferimento del G8 dalla Maddalena all'Aquila è stata un'operazione in qualche modo inevitabile, perché noi avevamo oltre 100.000 aquilani abruzzesi sfollati in tende e negli alberghi lungo la costa. E allora cosa c'entra? E io dissi a Berlusconi, io non me la sento di organizzare un G8 di super lusso alla Maddalena, lo faccia fare a qualcun altro. Poi alla fine lui mi disse, ma perché non lo facciamo all'Aquila? Io dissi, sarebbe un bel messaggio per questi super potenti abituati a vivere una vita blindata, a fargli vedere in che condizioni vivono i terremotati, anche se abbiamo cercato di fatto di tutto per fare stare bene. Quindi quella è stata la motivazione. Ma voglio aggiungere un'altra cosa, che il G8, la Maddalena, i lavori che sono stati fatti alla Maddalena erano stati fatti ad opera d'arte, e io spero che il presidente Renzi l'anno prossimo, quando dovrà organizzare lui il G7, non più il G8, la faccia alla Maddalena. Qualcuno... Sì, però a Maddalena mi sembra che ci sia un disastro. Non è un disastro, la Maddalena è stata realizzata anche lì in 10 mesi, è stata un'altra operazione incredibile, era un luogo bellissimo, i maddalenini lo andarono a visitare. Perché allora è tutto... Perché è stato abbandonato, perché ovviamente tutti hanno detto non è compito mio, non mi riguarda. Senta, il suo processo però sulla Maddalena è ancora lì. Che farà se sarà condannato? Non potrò essere condannato, perché? Ve l'ho già detto, perché ci sarà la prescrizione. Io a quel punto rinuncerò alla prescrizione e voglio essere io ad avere una sentenza, perché, ripeto, c'è un tribunale molto attento, molto severo, molto serio, che sta seguendo, che vorrebbe anche fare presto, ma purtroppo i tempi non si possono comprimere. Senta. Quindi a un certo punto però io ho chiesto di avere comunque una sentenza. Qualcuno deve dire se sono innocente o colpevole. Certo. Il purgatorio della prescrizione a me non mi riguarda. Senta, ha detto che nel 2008 alle comunali tra Rutelli e Alemanno ha votato Rutelli. Adesso sarà Alemanno che voterà per lei, va bene lo stesso? Okay, va bene, io credo che i fatti mi abbiano dato ragione, perché purtroppo Alemanno, per tutta una serie di ragioni, non è stato un grandissimo sindaco. Però voterà per lei va bene, insomma. Ma bisogna vedere se voterà per me, perché da quelle che sono le dichiarazioni che sta facendo in questi giorni non mi sembra proprio che sia proprio affezionato. Senta, e chiederà a Rutelli di restituirgli il voto che le ha dato? Ma nel modo più assoluto, io non ricatto nessuno e non chiedo mai di avere indietro quelle che sono le attenzioni che possa avere nei confronti della gente. Senta, di Salvini lei ha detto odia Roma, però Salvini la sostiene, però adesso già sui Rom mi sembra che non la pensi come lei. Guardi, io ho detto che Salvini odia Roma, l'ho detto nel contesto di un ragionamento che poi ovviamente è stato tagliato. È ovvio che Salvini ha molta più attenzione per quello che riguarda il nord, o almeno fino a un certo punto. Ho detto che Salvini mi sembra una persona estremamente concreta, estremamente attenta, con però sui Rom mi sembra che siete allo scontro. Non è assolutamente vero, perché anche queste frasi sono state male interpretate e vedo che sono già state strumentalizzate. Io sto dicendo che per quello che riguarda i Rom, l'operazione delle ruspe deve essere l'ultima tentativo. Prima ci sono tutta una serie di politiche per cercare di fare in modo che questi Rom mandino a scuola i ragazzini, tutelino i propri figli, altrimenti ovviamente questi bisogna... Ma Salvini non dice quello. Salvini ovviamente fa il suo ragionamento. Il mio ragionamento non è affatto lontano. Vediamo quanto Salvini dura questa alleanza con Salvini. Durerà a lungo, perché ripeto, siamo due persone che badano ai fatti e non le chiacchiere. Cosa le piace di Salvini? È una persona concreta, una persona con gli attributi, è una persona che vuole fare il bene del paese. Lei ce l'ha con gli attributi, però insomma, per governare possono governare uomini e donne. Ma certo, perché le donne non hanno gli attributi, spesso le donne hanno molti più attributi di quelli che hanno gli uomini. Senta, di Berlusconi cosa le piace? che è una persona corretta, una persona molto sincera, una persona estremamente buona. Senta, dopo tutte le sue vicende giudiziarie, i trattamenti che ha ricevuto dai media, ne abbiamo parlato, dei magistrati, cosa pensa dei magistrati? Ci crede la giustizia? Ci credo ancora fermamente. Questo processo che è in corso mi sta dando ragione, perché quelli che lo stanno gestendo sono delle persone assolutamente serie. È ovvio che ci sono stati dei magistrati, o ci sono dei magistrati che invece si prestano, soprattutto a livello di PM, a delle operazioni che sono finalizzate a infangare le persone, non certo ad andare a stabilire la verità. Senta, dei giornalisti? Passiamo alla prossima domanda. La prossima domanda è questa. Bertolaso, ma presentarsi alle elezioni senza la divisa della Protezione Civile è un handicap che varrà quanti voti? Guardi, è un handicap che però io fermamente volevo seguire, perché sono nettamente contrario a coloro i quali hanno una grande popolarità per quello che è il ruolo di funzionario dello Stato, magistrati, prefetti o qualsiasi altra cosa che sta rivestendo. Il giorno dopo si tolgono la loro casacca o la loro toga e vanno a candidarsi. Questo credo che sia un errore assolutamente inaccettabile. E quindi lei ci tiene la casacca della Protezione Civile? Io me la tengo ovviamente senza i galloni, ma dopo sei anni, ripeto, sei anni da quando me ne sono andato via, non dopo sei settimane o sei mesi. Certo, senta, un'ultima domanda Bertolaso, Olimpiadi a Roma sì o no? Mi deve dare un secondo, perché bisogna che spieghiamo il ragionamento. Ed è il punto fermo di quello che io voglio fare per Roma, perché innanzitutto i romani si debbono riappropriare della propria città. Roma ormai non è più dei romani, Roma è stata completamente commissariata, ma è stata anche commissariata per quello che riguarda proprio il senso della città. Noi abbiamo un presidente del consiglio che di fatto sta facendo il sindaco di Roma, e questo mi sembra assolutamente sbagliato. Va ai musei capitolini con il presidente dell'Iran, quando poteva andare in tanti altri musei che sono di competenza del governo, e invece è andato nell'unico museo che è di proprietà del comune di Roma. Abbiamo un commissario, seppur bravo, Tronca, che nomina city manager quello che era il city manager di Milano, nomina direttore generale dell'ATAC quello che era il direttore generale dell'azienda municipalizzata Però di Milano. Se sa risolvere i problemi, ma non c'è bisogno, perché non si trovano fra 3 milioni di romani delle persone che sono in grado di risolvere questo genere di problemi. Dobbiamo, e le Olimpiadi, per forza... vogliamo tornare alle Olimpiadi? Certo, a che cosa vogliamo dire di domani? Sì, no, le Olimpiadi. Le Olimpiadi si possono fare, ma non certo con il metodo che si stanno seguendo adesso. Cioè, domani c'è la presentazione di quello che è il programma che il comitato organizzatore vuole fare a Roma per organizzare le Olimpiadi. E Roma dov'è? Roma è stata coinvolta, i romani sono stati sentiti se il villaggio olimpico lo vogliono fare a Tor Vergata piuttosto che un'altra quindi parte. Quindi no a questo progetto di Olimpiadi? No. Cioè sì alle Olimpiadi, ma non così? Non al metodo, il metodo è assolutamente sbagliato, nessun romano è stato coinvolto. E non mi ma venga quindi chi sta sbagliando? Il CONI? Sta sbagliando il comitato organizzatore, sta sbagliando il presidente del consiglio, che sfruttando questo vuoto di potere che c'è a livello di governo di Roma se ne approfitta, e in qualche modo stanno facendo tutta una serie di operazioni che non riguardano affatto. Insomma, sì o no le Olimpiadi a Roma? Sì, ma secondo un metodo diverso. È anche diverso, e anche secondo però una c'è un vuoto di potere, va riempito nel frattempo se bisogna fare la presentazione. Ma ci possono essere 10.000 modi per chiedere una dilazione della presentazione, si può dire noi lo presentiamo però dobbiamo avere l'ok di chi verrà dopo, quindi questo genere di Roma comportamento è assolutamente troppo sbagliato. Verticistico secondo lei? Ma non è troppo verticistico, anche troppo esclusivo di quello che riguarda le competenze e il ruolo dei romani. Dove stanno i romani in tutto questo? Vogliamo fare in modo che i romani ridiventino i veri cittadini e i veri protagonisti di questa città? Va bene, senta, ultimissima domanda, Roma o Lazio? Roma per quello che riguarda il mio cuore, Roma e Lazio per quello che riguarda la mia città. Io ho sempre detto, temo che sia abbastanza utopistico, che prima di morire mi piacerebbe vedere una finale di Champions fra Roma e Lazio, magari allo Stadio Olimpico. Ah, questa è davvero un po' difficile. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Allora Mario, una Mission Impossible quella di Bertolaso, un titolo dell'intervista? Non è olimpico. Non è olimpico. E tu Pietrangelo? Può girarla come vuoi, però certo, insomma è contro. E tu Pietrangelo? L'Arsenal comunque ha vinto. Si capisce quel che dice, ci dice Marcello. Quel che dice. Quel che dice Bertolaso. Si capisce quel che dice. Cioè, domanda. Già molto. La domanda è, ma è anche quel che pensa? Si dice sempre così. Beh, speriamo che sia anche quel che pensa. Comunque, a tutti quelli che pensano di questa intervista a Bertolaso, comunico che saranno intervistati ovviamente tutti i candidati, perché questo è il modo nostro di fare servizio pubblico. Se vogliono venire, perché ci sono quelli che vogliono venire, quelli perché che non vogliono venire, presidenti del Consiglio che hanno un sacco da fare. No, ma dice che non verrà. Non ti ha risposto. Stavo pensando, sì? Dato che il ministro delle riforme, Maria Elena Boschi, partecipa alle riunioni come semplice dato che non vuole venire come ministro, no, né come semplice deputato, può venire come figlia. C'era quella canzone. Ah, dai, su, mamma mia, Pietrangelo, mi vuoi rovinare per sempre? Vabbè, dai, è tremenda questa cosa. Vabbè. Mamma mia, cosa ci fai ascoltare oggi? Non questa, un'altra canzone. Che ho visto stamattina ciondolare per le strade di Roma due stelle. Una aveva l'aria di andarsene, l'altra invece aveva il broncio e la ferma decisione di non farla andare via, l'altra stella. Insomma, Mario ha chiamato stamattina al centralino Giunone in persona. Giunone, interessante. Ha scelto questa canzone, l'ha dedicata a Giove con un messaggio: vai sempre via, per favore resta, almeno una volta, resta. Ma chi era? Giunone. Senza nome, qui i nomi non si fanno più. Come Giunone? No. Giunone non si fanno ha un nome. Più. No, chi è Giunone? È la moglie di Giove. Cioè, è una ben messa. Ma dai, sei veramente una ben messa? Sei veramente uno sconsacrato. Non mi ricordo qual era il poeta che fece una battuta meravigliosa. Che è la seguente: silenzio rituale, era bella come la moglie di un altro. Mamma mia, che volgarità! Dai, Mario, vai con la tua bolla. Grandissimo. Allora. Mancano sempre i bassi, non lo so. La Guerrera prende la roba che secondo me è bella, ma con pochi bassi. Senti. Oh, mi sono fatto prendere la mano. Ha deciso che sceglie lei un po' di musica. Io la lascio fare perché va bene. Ancora per quanto la lasci fare? Fino a oggi basta. Ah, va bene. Comunque, Jefferson Airplane, Somebody to Love. Cosa? Che bisogna certamente amare qualcuno, ma soprattutto bisogna controllare quanto costa, i prezzi e così via. E il prezzo del petrolio salirà, Giovanni? Pare di sì. Ha fatto un più 4% solo perché, il solo è relativo in questo caso, oggi a Doha si incontrano i ministri del petrolio di Arabia Saudita, Russia e Venezuela, quindi tre grandi produttori. Il tema è se il cartello dell'OPEC di fatto taglierà la produzione e porterà poi, quindi è un non per forza automatico, ma insomma un molto probabile significativo aumento dei prezzi, che salirà, bisogna vedere in quanto tempo e di quanto, però c'è un target a 50 minimo, secondo molti analisti, e nel giro anche di pochi mesi, secondo me 6 mesi probabilmente, da quello che vedo, mettendo insieme tutti gli elementi che sono stati dati finora. A 50 comunque, sempre la metà di quello che era due anni fa. Però sta 26, 27, 30, oscilla su quella roba là, adesso sta sopra i 30. Però insomma c'è una bella differenza per i bilanci, per i bilanci delle società petrolifere e per l'economia in generale, perché il tema è la borsa scommette su questo perché pensa che in realtà un prezzo del petrolio troppo basso incida negativamente sulla crescita economica. A questo bisogna però lì su sto prezzo del petrolio non si mettono d'accordo. Se è troppo basso perché è troppo basso, sì. Se è troppo alto perché è troppo alto. La benzina non cambia mai il prezzo, insomma, ti dico, io è un mistero vero. Ho, purtroppo per me, letto un'ampissima discussione sull'economia del Texas. Tutti dicevano il Texas andrà male perché ci sono i pozzi, le piattaforme, quelli che lo estraggono, lo shale oil. Alla fine l'economia americana comunque ha una crescita robusta, non lo so, si può anche elucubrare su questo, però è così. Aggiungo Draghi, che ieri ha detto delle cose importanti confermando che la BCE farà comunque un intervento robusto in marzo per sostenere la crescita, vedremo. Vabbè, come, vedremo cosa con quali dire. Strumenti si attende a questo punto solo la Federal Reserve. Che cosa però vuol intanto dire? Ha difeso il bail-in. Beh certo, cosa doveva fare? Dico, in Italia la discussione mi sembra che si riapra ogni giorno. Ma in tutti i posti si riapre tutti i giorni, ma cioè, mi sorprenderei del contrario, cioè, se Draghi non difendesse il bail-in, certo che lo fa. Aggiungo solo un'altra cosa, Giovanni, per chiudere. Tutto questo tradotto che cosa significa? Che forse ci sono speranze che i mercati si, diciamo... Riprendano un pochino. Va non bene. È detto, non è la, detto. Borsa Vabbè, è, la borsa è misteriosa. Va come vuole. Salamino! E io approfitterei della libertà che mi concedi, Giovanni. No, libertà. La libertà che viene dal tuo talento. Ne approfitto. Vabbè, avete finito di farvi i complimenti l'uno con l'altro? Oggi vi racconto di un genio, un vero ribelle, uno che tanto lascia con la sua opera alla cultura, al vivere civile e alla memoria di una parola complicata qual è l'Italia e che però nessuno racconterà perché la damnatio, lui si definiva superstite della Repubblica Sociale in territorio nemico, lo costringe se non all'oblio al silenzio. È morto ieri a Bologna, nella sua bella casa, colma di storia e di testimonianze d'arte, Piero Buscaroli, storico della musica, scrittore purissimo, erede, con Indro Montanelli, Giovanni Ansaldo ed Henry Furst, di Leo Longanesi e Giuseppe Prezzolini. Per lui non ci saranno le paginate dei grandi giornali, non ci saranno gli speciali della televisione, nessuna commemorazione alla Camera dei Deputati o al Senato. Lui fu autore di pagine monumentali sulla storia della musica, il suo Bach, il suo Beethoven, che sono studiati in tutto il mondo. E fu testimone di libertà e grandezza intellettuale nel settimanale di Longanesi Il Borghese, fu direttore a Napoli del quotidiano Roma e fu editorialista delle testate corsare fin tanto che i giornali riuscivano a sopportarne la grandezza. Lui ebbe in cappone il rischio di avere comminata un'onorificenza dalla Repubblica Italiana. Buscaroli, di proprio pugno, scrisse sulla lettera del Quirinale che lui informava di questo rischio e la respinse al mittente queste parole: «Io non desidero e non voglio alcuna onorificenza da questa Repubblica. Mi parrebbe uno scherzo di cattiva specie. Fermi la macchina, la prego, e non se ne abbia male. Detesto questa Repubblica. Grazie». È morto Pierino Buscaroli. Una preghiera per lui, ma De Gustibus, sì, se non voleva stare nella Repubblica. Era Bach. Era Bach, sì. Sì. No. Ce l'hai, Mario, un'altra bolla? Va bene, dai. Ragazzi, questa è la scelta Francesco, sono stato informato, e c'è gira l'anarchia, io non posso lasciare. Ma oramai non ci sono più regole. Cioè, io devo mettere la mia playlist, ho capito, non vi concederò più tutta questa libertà. Va bene, Comunque Tame Impala, sono questi. Vabbè, feels like we only go backwards. Ok, ma non ho capito se ti piace o non ti piace. Non ci sarebbe in Sardegna si dice razzeson e botto, cioè vuol dire che uno parla in siciliano, l'altro in sardo. Te lo ripeto, scusate, il siciliano è lingua universale. Ah, va bene, è vero, perché, è vero. Ma poi tutte le lingue, tutte le lingue meridionali sono universali. Nella famosa scena a Piazza del Duomo a Milano, quando Totò e Peppino chiedono indicazioni al vigile. L'unico che non si capisce è il vigile quando parla. Così. No. Comunque la ripeto perché è molto musicale. A razza di suono e botto su, che vuol dire che razza di suono, di botti, di tamburi. Vabbè, per dire cosa, che c'è in corso la guerra dell'hamburger, che è sempre molto interessante, cioè tra i giganti dell'alimentazione americana e mondiale, perché Burger King da una parte e McDonald's dall'altra. Oggi Burger King dà i suoi risultati, vedremo quali sono. Intanto nei giorni scorsi sono usciti quelli di McDonald's e sono molto interessanti perché pensa, il semplice cambiamento di un pezzo del menù ha ribaltato alla fine i risultati, e quelli di McDonald's sono stati salvati dall'Egg McMuffin, che è diciamo un panino, no? per usare il per essere il più semplici possibile, con l'uovo, bacon canadese, mi pare, non so cos'altro. E vendite nell'ultimo trimestre più 5,7%, le migliori degli ultimi 4 anni. La gente dice sempre che quando tu vuoi capire come va l'economia americana devi guardare quello che fa McDonald's, quindi vediamo. Beh, un po' è un bel, sì, un bel misuratore. Beh, è interessante, insomma, perché tutto questo poi deve fronteggiare, no, il cambiamento dello stile alimentare delle persone. Devo dire, insomma, osservare questi fenomeni è interessante. Sì, insegna molto. Sempre qualcosa. Canzoniere. Non sia mai che io ponga impedimenti all'unione di anime fedeli. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro si allontana. Oh no. Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Che c'è, Mario? No, che è a riprova di quello che stavamo dicendo, cioè cercare di mettere insieme i pezzi del mosaico dell'economia, il petrolio è in rialzo, è sopra i $31, quindi comincia forse una mini rally, diciamo, perché poi bisogna vedere come va il vertice a Doha che è in corso. Che è importantissimo. Sì, sì, sì, perché poi dovrebbe preludere a un accordo dentro l'OPEC. Certo. Diciamo che una stabilizzazione del prezzo del petrolio un po' più su dovrebbe aiutare le borse a stare anch'esse un po' più su. Va visto bene, che vedremo. Visto vedremo. Che il mercato pensa a questo. Vedremo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Il 21 marzo del 1935 io all'età di 33 anni firmai l'atto di costituzione dell'acciaieria di Bolzano, unica materia prima alla potenziale creazione di centrali idroelettriche, quindi la possibilità di avere dell'energia elettrica e idraulica a basso prezzo. Così Bruno Falchi ricorda la nascita della fonderia di Bolzano. E il 1935 lo stesso Mussolini vuole che nasca un'industria anche in quella landa dove si parla solo tedesco. E i Falchi, imprenditori del ferro e dell'acciaio, hanno fatto molto di più. Dal 1906 hanno creato un colosso della siderurgia a livello europeo. 15.000 addetti, 9.000 solo a Sesto San Giovanni. Sono gli anni 70 a segnare una crisi profonda nel settore. L'ultimo altoforno chiude nel 1995, ma con scelte lungimiranti i Falchi spostano la produzione nel termoelettrico e nelle fonti rinnovabili. I Falchi, il cuore e l'acciaio, successi e sconfitte, rigore ed etica, capitalismo solidale e rivalità familiare. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Intanto abbiamo qualcuno per il canzoniere, Luigi da Milano. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, sì. Che ci dice? Che sono i sonetti di William Shakespeare. Bravo, bravissimo. Un sonetto, Quale? Quale? Adesso mi no, butto fuoco, butta fuoco è spietato, guarda, capito? Ha ragione. Vabbè, però diamola per ma la diamo per buona, va. Grazie. Complimenti. Che fa a Milano lei? Ma lavoro. Adesso glielo chiediamo a Buttafuoco quale sonetto è. Quale sonetto è? 116. Non è vero, 114. Vabbè. 113. Grazie. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. JAMA 2 febbraio 2016. Associazione tra il consumo di pesce, i livelli di mercurio nel cervello e le lesioni del cervello medesimo. I ricercatori qui hanno voluto cercare di stabilire se il consumo di pesce è correlato con livelli aumentati di mercurio nel cervello. Sapete che è molto diffusa l'idea che ci sia una contaminazione di mercurio nelle acque dei mari e che ovviamente il pesce lo assuma, e noi lo assumiamo assumendo il pesce. E l'altra questione che si sono posti è se questo aumentato livello di mercurio nel cervello dipendente dal consumo di pesce è correlato con delle patologie cerebrali. Nello studio c'erano 286 cervelli analizzati all'autopsia, e di queste persone che avevano il cervello analizzato si sapeva molto bene il consumo di pesce negli anni precedenti il decesso. Allora, è certo che c'è una correlazione tra il livello di mercurio nel cervello a seconda della quantità di pesce che uno assume. Più pesce assumi, più mercurio hai nel cervello. Ma la notizia significativa e interessante è che anche se c'erano dei livelli più alti di mercurio, non c'era un'associazione con lesioni neuropatologiche, cioè con lesioni di danneggiamento del cervello, segnatamente le lesioni che possono procurare la malattia di Alzheimer e la demenza. Quindi attenzione naturalmente al mercurio, però questo non vuol dire che non bisogna consumare pesce per la paura di rimanere intossicati. Ecco, prima di chiudere rassicuro Luca da Vicenza che noi aspettiamo con ansia il faccia a faccia con Renzi. E non abbiamo paura. Gloria Guerrera, cosa ci presenta? Perché cosa hai detto che abbiamo paura? No, dice che mi asfalta se viene a fare faccia a faccia. Siamo pronti all'asfalto. Vai Gloria. Oggi una canzone di Claudio Baglioni dal sapore un po' hippie, per chi sta bene proprio come sta, senza pene né rimpianti. La mia vita è un'autostrada, sì, perché per mal che vada io non faccio marcia indietro, ma preferisco andare avanti senza pene né rimpianti, senza dire non lo faccio più. La mia vita me la gioco ogni istante a poco, sempre sotto braccio la mia libertà. Basta solo una canzone, una semplice illusione per avere quello che non ho. La mia vita è senza storia, io però non cerco gloria, non mi importa d'essere chissà chi. A me basta una chitarra per girare tutta la terra, per parlare con quelli come me. Questo mondo è un mare verde, se si annaspa ci si perde, io senza problemi vivo un po' qua, un po' là. La mia casa è la mia pelle, il mio tetto sono le stelle, le coperte sono i sogni miei. E una ragazza che la notte mi vuol bene e che cancella con l'amore. Sono accanto a lei, sono contento, posso morire in un al vento, posso dormire tra le viole, posso svegliarmi insieme al sole.